il bruci, no, più che. Che poi sbaglia e chissà quale ti dà. Meraviglio di te, Claudio, a volte certe battute. Sì, ma che sei. Sì, dicono tutti così. Poi quando sei davanti a quelli, sei il primo a... Capito? Lascia perdere già. Come si dice, c'è chi pensa a te. Vabbè, pazienza. Non c'è... Insomma, ci siamo capiti, dai. Non ti... Che poi ce l'hai anche già, tra l'altro, se non ricordo male. Piuttosto, quando passo, se poi facciamo anche una prova con quel portatile che ti dicevo. E poi ne parliamo, vediamo. Ti devo dire, Natale, sì, l'ho scaricata e c'era già addirittura la certificazione. Ma lo guardo. E su io, su io. E forse credo tra un paio di settimane ci dovrebbero anche restituire i soldi che abbiamo speso per le varie cose, il rimborso IVA, cosa diavolo è. Giulio! Dimmi! Buonasera a tutti! Dimmi! Ciao, buonasera! Sto usando il K, come sto arrivando lì a te, bene? La radio è quella solita tua bombardata, va benissimo. Segnale 9 più 5 più o meno, appena abbondato. Ti manca 9:10 arrivo. E attivaggio. Non lo so io. 9 più 5. Ah vabbè, non c'è problema. Comunque la radio è la mia, sì. Sì, la radio è quella bombardata, buona. Va bene, KK. Dai, riprendete, sentiamo dopo. Devo fare questo 162-35. Ciao Giulio, buonasera. Ciao Giofra. È tornata la portante. Sì, la portante, c'è giù. Giulio, io che festeggiamo, dai. È tornata la portante. La portante? Non è fresca. Pranzo, oltre che un bel caffè anche pranzo. Sì, adesso festeggiamo, visto che vola tanto. Natalie, sveglia, dai, che ci divertiamo, che c'è la portante. A me non mi fa entrare, o tieni spindi, mi dici. Ma su io? Su quell'applicazione? Eia. Lo speed ce l'hai, c'hai anche l'applicazione speed, se l'hai scaricata. Tappare di lì, richiesta l'autorizzazione, dice ok, autorizza. No, perché qualcuno stava dicendo che serviva anche per entrare negli ospedali adesso a fare le visite. Capito? Per essere certificati. Tutto lì. Riprendi Giulio, e oggi partite nulla? Stanotte ce ne sono due. Due addirittura. Quindi sei, cosa sei, nel momento di pausa o in attesa? Dove sono? Ho capito. Vabbè, oramai. Speriamo che vada tutto bene comunque. Avanti, Claudio, ti volevo dire una cosa, mi sei sfuggita. Vabbè, è così, dai. No, riprendete voi, mi state corrompendo, dai, già ci sentiamo un altro momento, ciao a tutti. Con la CIO o solo rompendo? No, corrompendo, sono impegnato a 375. Vabbè, vabbè. Giulio, riprendi tu, dai, che Natalino sta svegliando con lo speed. Natalino, ma cosa ti da fuori? Io stavo andando a casa direttamente. Sì, ho sentito, ma non è necessario. Sì, in vista. Anche se hai fatto solo il primo vaccino, vedi con la stessa. Sei già segnata, lo dobbiamo fare. Sì, c'è già, anche per il primo vaccino c'è già il certificato, perché se uno deve partire ovviamente, ma anche spostarsi, eccetera, è probabile che lo chiedano, è comunque una certificazione necessaria. Tutto lì. A titolo informativo per quel signore che mette la portante, guarda che con Giulio abbiamo la linea diretta, quindi dove portanti non c'è nessuno, quindi stai facendo un lavoro inutile. È per quello che noi ci divertiamo quando la vedi, perché sappiamo che stai perdendo tempo e basta. Ma per quello che devo rimanere in silenzio, perché non sento né a te né a Giulio. L'accesso per entrare in linea diretta, così sei anche tu nel gruppo. No, so dove siete, ma non mi interessa proprio andare lì. Io sono per il baracchino, il muoio al baracchino, se ce l'ho portante sto zitto, comunque non vi sento, vi schiaccia tutti e due di brutto, beh. Ciao, ci sentiamo un altro momento, ciao. Va, purtroppo se è di lì questo, in quelle zone, c'è poco da fare. Cosa ti volevo dire? Riprendi Giulio. Ok. Sì, Giulio. Infatti e cosa si attacca al tram? Nathalie, sulla riserva anche, in duplex, capito? Che ci divertiamo un po' a farle perdere tempo, a farle scaldare i finali anche. Ok. Lasciamolo fare. Ho notato una cosa che non soffia più, Hai visto? C'è la nostalgia, ce lo stavamo chiedendo e poi c'è. Hai visto? Ma non sa più soffiare. Ah, perché? Tutti ci sono. E io ho capito, infatti, sì, non sto soffiando in effetti, ma avrà finito il fiato. No, non sa più soffiare. Sì, Giulio. C'è anche Marco, mi è sembrato. Avanti Marco, ciao. Adesso Marco non soffia più. Prima soffia. Giulio, quanto sei cattivo. Allora. Abbiamo anche qualcosina di più. Che cosa? Quella non ho capita del corno, poi me la spieghi. Io già sei poco amaro, così è. E continua pure, hai visto? Natalino poi. Giulio, allora chiederemo a Natalino. E lui continua a mettere la portata. Visto che ci voleva la portante, te l'ha detto un paio di giorni fa, Natalino, lo sto dicendo, ci stiamo annoiando, perché eravamo noi due soli e portante non ce n'era. Adesso è tornata e quindi ci facciamo un po' di qualche ora di divertimento. Appena passato il tuo amore. C'era la scompistaccia. La portante c'è Giulio. Sì, la portante c'è, ma siamo in un altro canale, siamo, noi stiamo parlando in un altro canale con Luca. Ehi, attaccaccia. Però non ci trova, lui sta cercando adesso, io lo so, perché noi stiamo parlando in duplex, capito? Ma per cui no, non è facile per lui. Lui può parlare solo col duplo. Però hai visto, prima soffiava, adesso non soffia più, Luca. Avrà infartato. Se non vedi a quello fulminante. Anche quello può succedere. Ragazzi, di gusto, uno vuole farsi due chiacchiere e poi c'è l'imbecille che rompe le balle. Però va coglione a farlo, a vedere un capirà. Oh, io ci stiamo divertendo giù. Cosa va? Ragazzi, ma che se ne frega, ci abbiamo 3.000 modi per azzerarlo, no. Lui ne ha da mangiare ancora di pane, lui. Ecco, non ne ha di pane da mangiare, lui non ci arriva a questo sistema duplex. E poi abbiamo tante di quelle alternative che lui non conosce, perché è proprio limitato tecnicamente, capito? Ma a meno che non si compra un'altra radio, se si compra un'altra radio però deve spendere parecchio, soprattutto una radio digitale, tra l'altro. Giulio, magari c'è la coppa legge, poi rimane senza magna. Poi anche buono questo, poi la meravigliarsino, ma se magna che su che si magna un cane, un paraugane magna. C'è un cane Eddu, l'ugane è meglio di Eddu. E poi non può mettere la portante lì, perché lo trovano immediatamente. Già lo credo. Non è possibile, va bene. Dai, continua che ci divertiamo. Un altro buono mi data lì. Per carità. Andiamo e andiamo, cazza. Luca! Già ho sentito l'audio, sì. Te ne ho mandato uno io anche. Sì, quella che abita accanto a me ce l'ha, fa quello della famiglia Adams. Sì, non farò questi tipi pappagalli. Il mio fa... Che zughi. Sì, c'era la portante prima già. Sì. C'era la portante prima già. Sì, vabbè. Ho detto, bisogna avere molta pazienza. Curvimo. Bah, c'è pazienza. Bisogna avere pazienza, è vero. Sì, perché se non è pazienza si è fottito. Loro quando stanno così liberi poi entrano in gabbia da soli e tutto, capito? L'ho imparato questo. Questi campano tanti anni, vero già? Sulla trentina d'anni questi, però li arattura quelli grandi 100 anni. Cazzo! Chiude il pallone e campa. Sono belli. E mangiare cosa gli dai? Verdure? No, questi sono particolari. Sono nettarini, praticamente questi qui mangiano i nettari dal fiore, no? E gli dai, mangiano il nettare, che è una polverina che vendono, e poi mangiano tutti i tipi di frutta, tranne l'avocado, che è un veleno per loro. Ah. Vabbè, la mela ne fanno ghiotti, no? Mela, la banana stravera. Ma non è pesante la banana? Ma non è pesante, non loro sono abituati a mangiare banane, sono australiani. Ah, ho capito. Dicono che la banana già è pesante per noi, questi animali. Giulio. Gianni. Ciao Giulio, buonasera a tutti. Ciao già. E allora? Sei arrivato un pochino tardi, ci stavamo dibattendo. No, io ero all'ascolto, sono entrato prima, poi ho dovuto fare una chiamata perché mi hanno chiamato e non mi ero reso conto che mi avessero chiamato, ho visto la chiamata e ho richiamato. E quindi ho perso un po' di tempo, però ero all'ascolto, ho visto che c'era una portata alle 9.30, passate più del 9.30, però non so da come, era un bel forte, ti copriva anche a te. Lo so, ma noi già lo sappiamo chi è. Tanto è vero che ho attaccato il lineare perché ho detto magari mi passa, invece con il lineare magari riesco a passare. Io non so che gusto ci prende la gente, non lo so. Ma lo fanno anche sul link nazionale. Sì, già lo so. Ma che ancora andando sta Lizio Nazionale? So che... cosa già? Ancora c'è Lizio Nazionale. Mi avevano detto che lo stavano più modulando. Sì, c'è sempre. C'è 431, 125 mi pare, se non mi ricordo, vabbè. E c'è questo qua, io lo accendo presto, mi risveglio alle 7, così lo accendo, rimango in camera, ascolto un po' perché sto facendo cosa, no? E questo qua, cucù, così fa, e poi lo rompo le scatole, mette le registrazioni. E uno l'hanno fatto comunque. Mi pare sono cose da fare, ma se quelli vogliono farci due chiacchiere, tu vai a disturbarli. Ma quello che l'hanno trovato lo ha denunciato il CISOM, perché l'hanno fatto passare come interruzione del servizio della protezione civile, l'hanno pescato e adesso si sta arrotolando nei guai. Vedi tu, ho capito, lo va a disturbare così, non so che, cosa gli danno, la medaglia, cosa gli danno, un mongolino d'oro. Avanti! Ciao Enrico, ben sentito, cordialità alla stazione W1 della città di Sassari, che ti super cordializza. In compagnia di tanti amici qua da Sassari, ti ripasso allora uno, avanti Luca, puoi fare girare. Io sento, Vai Giulio. Ok. Un attimo, Luca. Vabbè, riprendo Michelino io, Enrico. Come mi ascolti in quella zona? Guarda così il segnale come arriva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. KK, va bene, va bene. Era solo una prova. Mi dici le tue condizioni di trabacco? Ma non sta parlando. Ma non sta parlando questo già. Ho capito, sì. Hai una mezz'ora. Sei arrivato con Santiago 3 e una radio di 3 e mezzo, dai. Ti posso dare. Comunque ti ascolto, ti fai ascoltare. Dai, io sto parlando con un Galaxy Saturn Echo sempre di quegli anni lì, sì che lo conosco, l'Avo International, come se lo conosco. C'aveva Falcone, un CB di Sassari, dai. E poi va bene, dai, l'antenna è una Game Master. Ma come ti sta parlando già? Ecco. Ma non stai uscendo nel radio? Io già lo sento. K, qual è la tua città esatta, collega? Che non ho coperto nemmeno il QRZ, dai, io sono W1, un giallo in W1 della città di Sassari. Mi dice il tuo QRZ è la tua città, che non ho copiato. Ho chiesto dove sta modulando, lo sai perché? Perché qua arriva 9 più 10 lì, cosa non lo sento? Arriva qua, arriva a 3. Io già lo sento, se non mi ascolti quello che ti dico. Ti ho detto dove sta modulando, perché qua arriva 9 più 10. Non so se è nella zona del mare, nella Francia, dov'è? Attenzione amico, Lecce è la tua città, conferma. Sono le pace. Già, si varia il trano, blu. Alghero ci siamo, 9 più 10, buonasera. Cioè, siccome io ti sento 9 più 10, già mi ti sento Santiago 3, 4. Ho detto, ma non capisco con chi sta parlando già, da dove stai modulando? Arrivi 9 più 10, ma adesso ho capito, sì, Alghero. Buonasera, comunque, Claudio Spalviero, vai già. Ehi, sta facendo il bidone? Quello te l'ho detto, cioè mi sembra strano, 9 più 10, propagazione molto bassa, lo skip è molto corto. Vabbè, comunque, se Alghero già ci sta, 9 più 10 ci sta. E comunque il segnale Santiago 3 poteva essere da fuori, perché la radio è bassa, il segnale è basso. Ma a me no però, a me ne arriva radio 5, 9 più 10, per quello che ho detto, ma già, con chi stai parlando? Non riuscivo a capire. Ma tu perché sei in direzione, magari se io mi metto lì con la macchina, magari arrivo anche io con un segnale più forte, però probabilmente in direzione verso di te, Claudio. No, in direzione nuda, in direzione è che io sono molto molto alto, non cambia niente da davvero, quindi davvero mi arriva molto forte lo stesso, capito? Se tu eri in macchina, lo vedi l'altra volta, magari lo sentivi più forte di come lo senti a casa tua. Perché per te Alghero è più coperto rispetto a dove sono io. Io sono spostato leggermente a sinistra, ma sempre nella stessa zona dove ero prima. Ma no, Alghero, secondo chi modula, gli arrivo 8, mi arrivano 8, 9, dipende. Secondo da dove modulano. Quando modulava, come si chiama? Adesso non mi ricordo come si chiamava, quello che tu gli hai venduto il baracchino, quello modificato, l'ha venduto lui a tempo. Però lì arrivava bene qua. Ho capito. capito, capito. Però vabbè, la zona è diversa, già non c'è niente da fare. Io sono sempre in periferia, voi siete dentro Sasse, le aperture che ho io sono molto più aperte. Comunque vabbè, a prescindere, a me ne roba 9 più 10, non riuscivo a capire chi era la roba che stava a parlare. Vabbè, Alghero, se vuoi riprendere, riprendi, altrimenti ti saluto. Ciao, buonasera. E pari due, vabbè. Ciao, Vagama. Riprendi giù. Giulio, che fine hai fatto? Anche a te ti arriva bene col K, che l'ho riattaccato. No, ho capito. Ho detto, se ti arrivo bene col K. Sì, sì, va benissimo. La solita radio, come sempre, anche il segnale è buono. Sì, sei 9.25. 9.25, la radio è 5 a bomba. E vabbè, infatti, sto usando 20 fatti. Va bene, vecchio, l'ho fatto mia figlia, aveva un casino niente, no, sentiamo dopo già. Non so chi c'era, ho sentito Giulio poco fa, Gianfranco, Natalino, poi c'era la portante, boh, io me ne sono ben andato. Ciao. Ehi, ehi, allora. Vabbè, purtroppo è così. Ogni tanto c'è il portantista. Siamo in duplex, siamo nel 5 dall'altra parte, in duplex. Stiamo parlando qua. Ho capito, ho capito. Fate. Dai, ci sentiamo. Ciao. Così almeno la portante c'è fuori di testa. Ma io ho possibilità di parlare con questo duplex. Sì, se ti diamo la frequenza, sì, o Luca. Mandamela. Sì, te la mando, dai, aspetta un attimo che te la mando. Tu non hai mai valutato mania di Don Duplo? A voi è buon trucchi, cra. Allora, ti mani un duplo, se... ma niente, capito? Ma niente, fa vedere, ciao. Ah, che cosa, con la brittella o l'asciugamano? Con i cattoncini corti. Oh, c'è freschetto qua, La marina ti tira questa aria fresca, che la notte ci devi anche colpire il collo, l'ignarma. Anche qua, c'è un bel fresco, fate suonare se una, fanno la sigaretta, faccio una berretta, se vuoi il culo bordante, ciao. Ciao, cla, ciao. Quindi tutti andati se ne sono. Cosa già? Tutti andati se ne sono. Scusate, mi stavano la frequenza, Giulio. Ma no, è qua o sull'LPD? Non lo so già, boh. Che merda. Non lo so, boh. Si aspettava di mandare la cosa a Giulio. Ah, me l'ha mandata, aspetta. Luca, hai capito? Ti ho caricato, aspetta, cosa devo fare? Canale 14, come si fa? Boh, non ricordo più. Poi ti do la frequenza. Ciao, bella. Ciao, ragazzi. Ciao a tutti, ciao. Ora, attenzione, canale 10. Giulio. Sì, ci sono. Di là, in 26, come sentivi, tutti chiari, senza nessun disturbo. Ti sentivo benissimo in quella frequenza, Gianfra. Sì, io c'ho un po' di stazionare, però non accordo bene sui 26 spiccioli. Vabbè, tanto sono passaggi brevi, non è che succede niente all'apparecchio. Natalino, tu andavi lo stesso molto bene, quindi l'antenna va. Sì, a voglia. Mi sentivo bene a tutti io. Appunto, quella lì è una frequenza che queste antenne che abbiamo si addicono benissimo, non c'è problema. Infatti qualcuno se ne sa, ha fatto una ragione che è limitato. Però visto il sistema duplex è eccezionale, non si può dire di no, è una bella trovata, dai. Non è che disturbiamo altri servizi senza rendercene conto là, no? No, assolutamente no, tranquillo Marco, assolutamente no. Lo chiedo a Gianfranco perché le frequenze, come dice lui, come so anch'io, sembrano vuote ma non lo sono, non vorrei... No, praticamente siamo sempre qua vicino, non è che disturbi nessuno, capito? Se proprio esageriamo potresti disturbare qualche tassista russo. No, non c'è da preoccuparsi su quello, capito? Siamo sempre nei limiti. Io stavo usando 0,5 milliwatt, quindi dove vuoi andare? Ci sentiamo solo tra di noi e basta. Appunto, e a parte quello, a parte la potenza, ma poi c'è da dire questo anche. Ad esempio, col carifier, non è come ad esempio da un canale all'altro col carifier riesci a sintonizzare, no, perché sei molto più lontano, dunque il carifier non ci arriva. Sì, meglio che non ci arriva, vedi. Appunto, se credo non è possibile. Uno deve avere una radio specifica per poter arrivare lì, se no non è possibile. No, io l'ho dovuta modificare questa, infatti. E dopo quell'accordo che abbiamo preso fra tutti noi, l'abbiamo tutti modificata, no? È chiaro, se no non saremmo potuti arrivare lì. Io ho fatto il ponte dal polo caldo dell'antenna, diciamo, al positivo dell'alimentatore. E poi il resto ammazza, tutto ammazza. Sì, perché poi tutto si infrange a terra, capisci? Si infrange tutto a terra, per cui non c'è nemmeno nessun cortocircuito, niente. E poi non fai proprio TVI, anche per chi c'aveva proprio dei TVI, spariscono completamente. Una volta che il segnale è vincolato a terra in maniera perfetta, è tutto tranquillo. Sì, ho fatto una trappola, diciamo, sul terreno lì a piano terra, proprio per scaricare tutto a massa. No, va benissimo. Poi tutto l'RF rimane tutto dentro l'apparato, no? Non esce più di tanto, non disturba né TVI, niente, nulla. Assolutamente no, praticamente è simile ad un filtro passa alto, per cui non c'è possibilità di interferenza, niente, assolutamente niente. Ma se non hai massa non fai nulla, bisogna fare bene massa. Sì, ma come abbiamo deciso di fare, l'abbiamo ricavata la massa nata lì, per cui se l'hai ricavata, se ti sento vuol dire che l'hai ricavata, è giusto, no? Diversamente non potresti farti sentire. Praticamente stiamo lavorando su onde convogliate, capito? È per quello che tutti la collegano anche al rubinetto, non avendo altre alternative, si collega al rubinetto e va benissimo. Sì, secondo me lui potrebbe collegarla anche al rubinetto, da 220, capito? E io perché dovrò collegarla? Infatti Natali, quando ti fai la doccia sei sempre elettrizzato. Certo che sì, è mancanza di massa terra, basta utilizzare appunto il tubo del rubinetto dell'acqua, e quello è già una massa terra, per cui è sufficiente quella. Noi siamo diventati grandi così. E certo che sì. E va bene, dai, comunque. Questo è per una stretta cerchia di persone, però non è una cosa da allargare a tutti. Complimenti però per la modifica, una bella trovata, Giulio. Vabbè, dai, ho messo in pratica l'esperienza di quando ero antennista, dai. Ho messo in pratica un po' quell'esperienza lì. No, proprio alla grande, abbiamo risolto il problema praticamente. È che, non so, mi manca qualcosa, mi manca il divertimento però. E il divertimento ce lo possiamo creare, perché parliamo contemporaneamente qua e là, per cui se lui sente, mette pulsante, ma noi ci sentiamo dall'altra parte. Magari gli viene qualche complesso, Oh Giulio. Ehi, dimmi. Stavo pensando che gira, dato che tu spesso sei assente, di registrarti e di far finta di fare un QSO, così da portante le facciamo perdere anche un altro po' di tempo, capito? Sarebbe micidiale, così la mette al muro la portante. Anche quella può essere una bella trovata, perché no? Certamente sì. Vabbè, per cui no, non c'è problema. Vabbè, comunque. È a giorni, deve essere che ha dei giorni che è di malumore, allora si distrae in quella maniera. Oggi gli mancavi, dai. Insomma, pochi bravi, ci sono più giorni che fuori di testa che in sé. Oh yeah, è ancora Edo. Comunque questa volta che ci siamo divertiti siamo noi. Te lo credo. Ci siamo divertiti intanto perché non abbiamo interrotto niente, nessun collegamento, per cui non c'è problema. Magari rimugina, ma stava pensando, ma non arrivi, non è roba battonte, no? Dai che non ci arriva, che tonto. E poi in quella frequenza, hai visto, QRM è proprio zero, sembra proprio una telefonata, allucinante, nessun disturbo, niente, nessuna interferenza. E lo credo. credo, con quella massa così, io non credo. Aspetta, ti elimina quasi totalmente il QRM, quasi, senza quasi. Perché se tu non ascolti con un volume basso non senti proprio niente, nessun fruscio. È tutto merito della massa terra. Hai messo il filtro quello anti-mask, anti-mask, com'è? Non mi ricordo com'è. Anti-mank, mancant. Però hai visto, da un bel po' di tempo questa parte non soffia più, una volta soffiava, adesso invece no, si limita solamente a ballare col dito. Adesso c'è caldo, fatica troppo a soffiare. Magari gli è venuto il coso, il morbo di Parkinson al dito, per quello che fa così. Chi lo sa. Luca Nieri, è ben allontanato che sì. Ma niente, Ma niente, che su Luca, Dagaro, Magnaro, Marco Gresci. Ma è importante, brava Gine. Ma è vaporata, ciao Cla. Ciao Cla, buonasera a tutti di nuovo. Vabbè, sono andato a salutare, c'è sempre importante, devi passare a gamba, guarda. Sì, ma tanto adesso è venuto leggermente nervoso, Cla, a forza di non disturbare Giulio più. Ho capito, ma qua vi passa a tutti, tranne che a Roberto e Antonello, quindi cosa, ma se ce l'ha portato io chiudo. Ecco, perché devi collegare tutto a terra, come sta dicendo Giulio, te l'abbiamo detto mille volte, tutto a terra va quell'impianto, poi già si avvicina a Giulio, te lo fa anche a te. C'è un break, avanti, buonasera. Sì, buonasera a tutti, ho sentito di sfuggito appena acceso, ho sentito Gianfranco, Giulio, Franco, Claudio, poi non so se c'è qualche altro. Avanti a chi tocca. Ehi, ciao Roberto, vabbè, dai, siamo qua, con la massa a terra. Cioè? Con la massa a terra, no, nella trasmissione che abbiamo, che anche tu conosci, no? Di nuovo problemini? Sì, oggi era nervosa evidentemente, ma ci siamo divertiti un mondo, guarda. Ti posso garantire che eravamo tutti nell'altro sistema, con quel collegamento a terra, eccetera, e fuori banda della frequenza che solitamente possiamo utilizzare, perché nemmeno il carrier ci arriva lì, anche se ti sposti col carrier non ci arrivi proprio, perché lì non è canale alfa, sarà nemmeno B, C, B, D, forse D, F, non lo so. È un canale gamma, capito? Ciao Roberto. Ciao Franco. Vabbè, poi appena un po' più sotto di questo canale, perché è collegato con una massa a terra e ti fonde con fogliate, in parole povere. Ti fa scivolare di frequenza, capito? Capito, Roberto. Ehi, ha una frequenza fantasma. Una frequenza fantasma, infatti. È quasi pirata, mi. Codificata, cosa ci avete? La scheda di coso? Di Sky o di Mediaset? No, con la scheda Eco Doppler. Ah, così è. Facciamo sentire a Claudio, dai, che voglio sentire questa radio, mi sta spaccando i timpani. Avanti Claudio. Scusate, telefono. Cosa devono sfasciare? Questa è sempre la stessa modulazione di ieri, no? Non cambia niente. Un bombardamento, catena di radio. Ok, chi c'è poi? Ho chiamato Gianfranco, Franco, Giulio, Claudio, c'è qualche altro? Ascolta Roberto, il radio mi ha detto va bene, il segnale è sempre uguale, 35. Un peluzzino meno, vediamo le 30, sì, dai. Addirittura, non ci picchiamo. 9 più 30, come mai? Vabbè, la potenza a 20 watt, l'altra la uso un po' più alta, va bene. Si andava, cosa vuoi di più, cazzo? Chi c'è pure Natale, Pasqua e Capodanno? Sì, va bene. Fatto, mi senti bene? Sì, non ho problemi, io sento tutti. Adesso faccio una prova con Roberto. Guarda Roberto che ha aumentato la potenza, la radio è rimasta invariata, il segnale è cambiato, la radio è sempre uguale. Tutto uguale, ma che cos'è questo qua? Che cos'è secondo te? Ne abbiamo già parlato, sempre via isole. No, perché sembrava diversa la radio, più piena, forse vabbè, l'impressione è via. Questo è l'MB più 5, non è il TM più 3. Allora che cosa è cambiato? C'avevo ragione io, no, va bene, la radio è bella forte. Ascolta, il segnale invece non è salito niente, è aumentato appena di 5 watt, 10 watt. Ma il segnale è 9 più 30. Quindi da così, 9 più 30 così, e così non cambia niente, si abbassa. No, non noto differenze. Ok, meglio così, allora lasciamo 20 watt, da 20 a 30 watt non cambia niente, va bene, ok, avanti fra, a te mi ascolti bene tu. Bella comunque questa radio, lo sai che mi piace un bel Claudio. Mi hanno detto che è Budiana, si assomiglia molto al K. Mi sto dicendo, è meglio di quella di ieri, infatti ho detto, cazzo, bella, proprio corposa, e poi non è distorta, bella bella. Questo è quello MD5 che ti ho detto, diretto, alimentazione diretta dalla radio, sempre con l'adattatore KVDI ASU. Una bomba, io pensavo fosse un'altra radio, figurati, sembrava un 60. No, l'MD5 con la radio che sei tu. E i tuoi come ce li hai? I tuoi sono due. Bella, no, ti sto dicendo, no, per dire, questa mi piace veramente, forte però è anche chiara, non è, è di quelle distorte, infatti ho detto, ma quale è una fan radio rispetto a ieri? No, va bene, ma io questi esperimenti li ho già fatti, capito? Abbinamenti strani, peccato perché ho provato l'MC50 però è praticamente come che stai usando un microfono normale, capito? Ok, dai, facciamo riprendere anche agli altri, avanti Gianfra. Sì, io ne approfitto un attimino perché mi hanno chiamato a cena, è già meno un quarto, le otto meno un quarto. Quindi vi saluto tutti, ciao Giulio, ciao insomma tutti quanti, dai, senza stare lì a fare nomi. Riprendi Claudio, confermami un'altra cosa, quindi senza cavi, cioè ti porto con l'affare senza cavi, l'unico cavo che ti porto è quello che ha fatto Giulio per quel sistema là di cui stavamo parlando prima, d'accordo? Allora lo so dove siete, lo capisci, non lo so, io so tutto, vi ascolto anche, ma momento, non mi interessa. Ok, va bene, chiamami domani, va bene. Ok, ciao. Ciao Gianfra, avanti, back e pure controllo. Bene, 9+20 era 10.5 da me, va bene? Conferma anche a me, leggermente meno di 9+20, però la radio bella pulita. Vai Claudio. Buona, 5, perfetta, segnale, ripeto, 9+20, vai Robè. Bene, ti ascolto anch'io, bene, pulito, poco meno di Claudio, se quasi 9+20. Sì, ti ascolto bene, facciamo riprendere anche a Franco che è un po' in stand-by. Avanti a te Franco. Ma non avevi risposto. Scusate che era un'altra frequenza. Cos'ecco, sei in un'altra frequenza. Sì, capo, stavo parlando in bassa frequenza. Come non detto. Ok, di nuovo a te Muros. No, stai andando bene, no, non c'è problema. 9+20, radio 5, io sto andando con l'MB+5 e lo IESO, come va? Una domanda a Claudio Muros, che carne stai usando? Ecco, sembri a fianco a me, guarda, non ti ho mai sentito, raramente ti ho sentito uscire pulito, proprio perfetta, non tocca niente, tutto quello che hai fatto adesso non toccare niente, sei perfetto, non hai saturazione, non hai distorsioni, non ci sono ronzii, non c'è niente, modulazione 10, perfetta. Va bene, ehi, comunque già, ti arriveranno bene, non c'è problema, ottimo per la truppa. Franco, riprendi? A Franco ha detto che c'è spostato per una bassa, Andiamo, andiamo, cazzo. E beh, Pevella. E beh, Casarella. Ehi, ti ascolto una bomba, ma non esce la Marina? Ehi, la Marina. Sono io allucinante con l'antenna. Sì, 9+5 da Marina o 9+5 sì. Ma veramente arrivi voce. Tu sei sul più del più 30. No, va bene, ottimo per la tua. No, tu stai arrivando un bel forte da Marina. Arrivi più forte qua che quando ero a Carbonazzi. Arrivi benissimo lo stesso. È cambiato poco e niente. Ciao Robè. Beh Luca, qua sei 9+15, anche no, forse hai fatto qualcosa, hai spostato l'antenna, anche io ho notato qualcosa di meglio rispetto al solito, eri 9+10, adesso 9. Come ti arriva a te Luca? Tu sei sul più lo stesso, Robè, tra il più e il 3. Vabbè, non c'è problema, c'è anche Claudio Lamuro, se te lo rilancio vediamo se riesci a ascoltarlo. Avanti Muro per Luca. Sì, anche Claudio arriva benissimo. Ciao Claudio, salutone anche a te. Ben sentito, tu sei segnale 5 a picchi positivi, La radio è bella, 5, avanti. Non è cambiato molto perché c'è una bella apertura, non è che siamo abbastanza alto. Sì, davanti a me, non c'è problema. Adesso vedo il paese, evidentemente prima non lo vedevo, capito, l'ho coperto la scala di ciocca, tutto qua, per quello arrivi fortissimo, non c'è problema. Vai Robè, riprendi. Sì, no, non tutti migliorato, vedo anche Claudio adesso, vabbè, va sempre oltre 9, però adesso quasi 9+20, ti ascolto perfettamente, cioè, non c'è bisogno di aumentare ancora di più la potenza. Muro, sto parlando di Claudio di Muro, credo va arrugginito, non c'è bisogno, per me va benissimo, sei a bomba. Tutti oltre 9 sono, per cui non ci sono problemi. Vediamo se Franco Binario è rientrato, se no riprendi tu Luca. Vai Luca, Luca si è allontanato, avanti Claudio Sparvieto. Ehi, va bene, io mi trattengo per 5 minuti e poi vi lascio. Vado a farmi un aperitivo con mia figlia in veranda e poi ci cena e ci guardiamo la partita, c'è una partita stasera. Che prendi qua? Ho chiamato Radio, Claudio Sparvieto, quindi cosa hanno fatto? Di segnale di cosa? Di modulazione? Il segnale è quasi uguale, manca poco, modulazione è troppo alta, stai per strappare, devi lasciare un pelino. Allora adesso sto abbassando un pochettino il microfono, guarda se va meglio, 1, 2, 3, prova radio. Appena ancora. 1, 2, 3, prova radio. Così va bene, fortissima così, Claudio. Sì, vabbè, diciamo io ho fatto delle prove in coso, in banda laterale con questa radio, mi spinge parecchio, non tanto, però devi togliere delle funzioni perché sennò hai crei degli inneschi e delle cose che non vanno bene. Io vado a Claudio nostro, diciamo, torre di controllo. Ah no, va bene, ti sto ascoltando senza filtri, senza niente, diretto, va bene, segnale è sempre oltre 9.30, ma la radio adesso ha migliorato, poco fa era troppo alta, capito? Vediamo un po' se c'è Luca, no, non c'è, allora dai, riprendo io che mi stanno chiamando, io vi saluto, vi abbraccio a tutti, ciao Luca, Claudio Di Muro, c'è a te Roberto, Franco salutatemi quando rientra, Giulio, insomma Tarino, se ne ascolto tutti, chiudo perché mi stanno chiamando, dai, devo uscire fuori. Ciao a tutti, buon fine serata e buon tutto, vai Claudio, saluto a casa. Ciao, buon tutto, dai, alle prossime ci sentiamo, buon proseguo di serata. Ok, vediamo se è rientrato Franco da Binario, se no riprendi tu Claudio Muros. Nulla, vai tu Claudio. Dai, ti ripeto, è eccezionale la modulazione, il segnale vabbè, è sempre forte, se ti ascoltavo sempre bene, la modulazione è molto naturale, le valvole è un suono molto naturale, al contrario del transito ti dà un leggero effetto equalizzato, un pochettino troppo poco naturale. Questa è veramente bella, ti consiglio di non toccare niente, anche come livello microfonico, ti ho guardato poco fa, l'analizzatore sei perfetto in tutto, non tocca nulla, come diciamo a Sassari, non tocca, come dice Claudio. Avanti di nuovo a te. Guarda, ti ripeto, come pulizia di segnale, come qualità di cosa, di modulazione e fedeltà, conoscendoti dal vivo, è perfetta. Non ti posso dire niente perché non sento disturbo, non vedo difetti e cioè non hai carenze di tonalità o esaltazione di tonalità, è tutto perfetto. Il segnale, il livello è dentro i limiti di cosa, di legge, diciamo, di valore, di non hai saturazione, per cui ti posso dire 10, perfetta. Adesso la chiedo il bianco, vediamo se per caso è rientrato qualcuno, prima Franco. Eccomi, ci sei ancora Claudio. Allora c'era l'altro giorno tempo fa uno in officina che portava uno suo anche moto in coso, in pedana, chiuso, bello, non mi ricordo quanto prendeva, però c'è una roba, non so se lo conosci, quello Motoring in Piazza del Sene, quello è un amico, eventualmente si possono ottenere informazioni a lui perché lui spedisce, acquista, vende, però so che è abbastanza caro la spedizione. E io ti faccio sapere domani, se non ricordo, faccio 5 minuti di tempo, chiamo Omar e glielo dico. Adesso non lo voglio disturbare perché non mi va, è troppo tardi perché ha già finito di lavorare. Lo chiamo là. Quanto mi hai detto quando stavi vendendo il 50 tu? No, lui non fa spedizioni, però siccome compra e vende moto, soprattutto vende lui, spedisce in tutto, anche negli Stati Uniti ha spedito da tutte le parti, lui acquista, rivende, c'è un negozio di moto, che vende moto a Piazza del Segni, però siccome ci ha contatti lui usa molto i corrieri, e moto metto, ma anche moto grosse, no, non cinquantini. Dimmi una cosa, che modello è del 50? Ne ha preso uno, un amico mio, tu dici, diciamo io ho il Cali, io sono anni 80 di moto, e mi hanno regalato anni fa il Califone con documenti. Perfetto, originale, verde metallizzato e tutto, perfetto in tutto. Si è comprato questo carissimo amico, un 50, però l'ultima edizione che hanno fatto, quello con tutti gli spogli e tutto quanto, era molto da ragazzino sua. E l'ha pagata anche, diciamo, non troppo, però la moto è nuova, sembra non c'è una negozio, insomma l'ha pagata 400 euro. Ed è l'ultima versione che hanno fatto del tubone 50. c'è un amico mio, è quello rosso, c'ha tutte queste appendici aerodinamiche, eccetera, eccetera. Era molto appariscente come moto. Buonasera, buonasera anche a lei, da Muros. KK, dai, anche tu intorno a quella cifra, eppure voglio fare una prova, voglio fare tra un po', vedere come arrivo lì, perché non l'ho mai provato da te. Tra un pochettino faccio la prova. Sì, no, bella modulazione, te l'ho detto, complimenti, bella bella, a me non è di bella, è naturale. E poi tu, cosa c'è combinando? Niente di niente, adesso facciamo la prova con Claudio da Muros, va bene, come arrivo adesso? Come arrivo a Muros? Aspetta un attimino, ragazzo, andà un po' caretto che... E ancora è freddo, ancora è freddo. Comunque 1.000 euro non è poco, se te li danno dallo via subito, ma in buona condizione la moto, Claudio. Aia, bisogna vedere. Cosa vuoi dire? No, 1.000 euro è un buon prezzo, nel senso la stai vedendo bene. E non sono sicuro di queste valutazioni che stai dicendo tu, mi sembrano un po' esagerate, 3.000 euro. Stiamo parlando di una moto di grande produzione, non stiamo parlando di una moto rara nel senso una moto degli anni 30, anni 40, diciamo, quelle lì. Per cui se ti danno 1.000 euro, dalla via subito, perché non è che te lo comprano tutti i giorni. Il problema è una spedizione di quella moto lì, secondo me non ti chiedono meno di 200 euro, fatta dentro la cassa, il legno e tutto quanto. Kappa, guarda a vedere Claudio, come è entrato là? Metti che devo salutare a Claudio e a Antonio, a Roberto già l'ho salutato poc'anzi. A morte! Ciao Antonio, ben ascoltato dopo un bel po' di tempo. E vabbè, tu arrivi tardi la sera, io quell'ora non ci sono più. Adesso ero dall'altra parte. Ciao Claudio, come mai ti avete assente? Tutto a posto, sto bene, grazie. Claudio, salutami tuo padre intanto. Volevo telefonare, ma come ti avevo detto la volta scorsa, ho il vecchio numero per cui non ho potuto chiamarti, va bene, dai, non c'è problema, lo so, tu mi avevi detto di farmelo dare a qualcuno, o farò così, così almeno recuperiamo qualche chiacchierata in più. Bene Claudio, io adesso vi saluto, dai, devo andare a cenare che sono già un po' per me, devo essere un quarto, per cui la cena mi aspetta. Ciao Claudio, salutami Gianni, alle prossime. Ciao Roberto, ciao Antonio, ciao Antu, fatti sentire più spesso, vabbè, tu lo so che se lavori fino a quell'ora è la colpa mia se non ci sono. Ciao Robè, io vengo dall'altra parte, ci sentiamo prossimamente. Allora ti riprendi Robè, ascolto finalino di tutti e tre e dopodiché chiudo, vai Robè. Ciao Giulio, buon tutto, dai, buon divertimento, buon proseguo di serata. Anche io adesso chiudo, devo andare a mangiare, dai, saluto di nuovo a Giulio, Claudio Di Muros e Antonio qua da Sassari. Cuoretti da parte mia, ci sentiremo prossimamente. Ciao ciao. Kappa, ciao, dai, ce la risentiamo. Kappa, dai. Mica non è poco mi arrivare lì, 9:10 mi. Un segnalone mi. Ciao, ce la risentiamo. È un segnalone perché io sono dentro città, ma guarda quanto sto facendo forte. Kappa. dai, ce la risentiamo, salutoni, ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao, ciao ciao, ciao ciao. Ciao ca. Ciao, ciao Cori. Ciao, sono te a casa. E beh, per il Vella. Io per il Vella gioco. No, Cattarella. Antonio Solomi. E Antonio per il Vella. Allora, com'è Antonio? Mi sto andando col K, com'è? Mi ascolti bene? K, finalmente! Claudio è ritornato alle origini. K, e tu bene mi ascolti con quel K? Che mi puoi dare il segnale più bene? Qua sei con quello là? No, sono con l'ala 87 e con altra cosa. Sei sul 20 pieno, di solito sei sul 10, 9 più 20, ottimo segnale, te l'ho detto, arrivi fortissimo quanto. Vedi quanto arriva per carbonati, va, né più né meno. Sei a carbonati pure 30. Sì, vabbè, però se non pompavi, capito, ma se pompavi già arrivavi 30. Cappa, ma ne è sciuto. Ehi, io, no vabbè, col K mi rivelo il controllo, vabbè dai, io sto andando con 20 watt, la radio bella è sempre la solita. Sei tornato, ma adesso ho passato, adesso passo a quello là, ok? E darò più preciso. KK. Ora, chicos! Già mai lunga, un che tu sei novendesi. Capo, andiamo bene però, vai, non è che... mi c'ho poca potenza pure, non è che... A me da vedere! Sì, ancora attendi, sì. Capo, no! Deve stare così questo, deve stare così. No, va bene così, lascialo stare. E io come ti arrivo? Mica, sono 9:20 pure tu. Ah, va bene, oltre per la tuppa. Capo, quasi 9:20, già va bene, cavolo. Va benissimo. Sto usando 20 watt, già va bene. Capo. Andiamo, va bene anche questo, dai. Ma che andata a Chighiddu, Iuia! Sì, adesso ci organizziamo piano piano, va, sto togliendo tutte le radio. Ah, capito. Ti stavo dicendo, a Muros mi ha detto che arriva con 9:10, poco fa, mica non è poco per il punto dove sono io. Per dove sono io secondo te poco è... E tu quanto arrivi? No, io a Muros lascia stare che ce l'ho davanti, gli arrivo oltre 9:30, ma ce l'ho davanti Muros, no, tu ho detto, arrivi forte da me. Arrivo forte, sì. Io non riesco a capire, più o meno... Sì, in un punto che io so, non è che capire perché non mi arrivi ancora più forte, forse perché sono tappato un pochettino. Sì, ce l'ho parlato tanto, non sono alto come altitudine da livello stradale, da livello del mare, ma poi c'è una ballata, capito? Capa, è per quello, evidentemente non fa da specchio per me, se no... E io quando ero a carburante mi arrivavo 9:40, lo stesso segnale che c'ha Roberto più o meno, mi arrivava quel segnale lì, eh. Vabbè, anche più vicino però, qua sono un po' di chilometri più distante. Non è poco, no. Cioè, te lo dico il verticale dove sono, ti ho detto, il radio non dico niente, capito? No, ci mancherebbe, non te l'ho mai chiesto, te lo potevo chiedere in diversa maniera, ma non te l'ho mai chiesto perché ho sempre rispettato la tua, come si dice, la tua cosa. No, non c'è problema, per non fare, capito? Cioè, te lo dico comunque, te lo dico di persona, almeno sei dove sono, quando vuoi vieni. Allora, faccio così, non c'è problema. Sì, no, ma ho sempre rispettato la tua scelta, no, ho aspettato sempre te che me lo dicessi, non ti ho mai detto nulla. Io non serve a niente stare lì dove sei, con chi sei, sempre sei, basta. Sono in campagna e boh, finiti i discorsi. Capa, che no, è giusto, ho rispettato la tua idea, è giusto così. Certo, vediamo quanto tempo sta sorbendo. Hey. attivissimi, va bene? Roger, è tutto regolare, qua già sta funzionando tutto bene. Oggi aggiungiamo ad uno scaldabagno, aggiungiamo. Però c'è un pagaduetto, aggiungi tu, io ho parlato d'olio, ma regalo materiale già mi aggiusto io. Non aggiungo dei buoni meraglienti in casa a rompermi le cazzole. Che poi magari ti fate anche casino, Già aggiungi una cosa che non mi è piaciuta. Vabbè. Oggi bussa posto io. No, ma conosciamo a fare le cose, andò fatte le tue gambe retta, perché poi la gente vede, osserva e riferisce. Meglio far entrare sempre poca gente a casa. Capito, hai raggiunto il cammino materiale. Anche a voi magari, sai, le cose me le posso io. Magari ti fate anche cosa male di ne fare in capo. Già ho visto una cosa che, vabbè, è dovuta a così, però non mi piace. Praticamente Zaniboccio, un pezzo di tavola ci hanno messo e al centro Zaniboccio, una staffa Zaniboccio. Non comment. Per carità è sorsorida. Va bene, Antoniere, dai, io ti saluto, sì, ci sentiamo dopo, ok? Vado a cenare, è arrivata mia figlia, ciao. Eia, ciao. Ciao. Allora, chicos, vai su un yogi. Prova radio, prova.